dallo sdegno d'asteria acquista l'ira, irritato ed offeso, odiarla il so dovrei, quanto m'oltraccia dovrei punirla. Ma quel volto che ebbe forza al fin di placarmi, approghi vai a te, preghi e stigni. Io stesso vengo tra queste mura, a ciò da voi intenda me presente i suoi trionfi. Ditele che il mio trono ancora è vuoto, che a salirvi di nuovo, perché quel che vi pose con la sua stessa mano non vi altro inciampo. Infin, se la si plora, io le perdono. Se ti ha detto, Asteria, dico, taci. Te non mi condannate prima d'udirmi. È tempo che Andronico con voi parli d'amante. Qual voce? Ai, che dirò? Chiesi e pregai. Apro del Tamerlan nozze d'affetti, ma questa mia richiesta è mio rimorso. Voi la puniste col fatal consenso, né di gran colpo mi voleste a parte. Ora io son dell'odio vostro e dico che son rival del Tamerlano e vamo. Ascolto mai. Sì, Tamerlano, udite, un amante e un rival. Vincete, cede. No, che priavo compir la mia protesta. Tenga il Tartaro pure tutti i vostri suoi doni e ancor maggiori, che per placare Asteria io gli rifiuto. Non dovesse al braccio tuo gran prove, ardito prence, non direste impune. Ma che risponde Asteria? S'uniforma il suo amor, benché infelice, che t'odio, il sai, che l'amo, egli te dice. Perfida, l'amor tuo fa ciò che in vano sino ad ora tentò tutto il mio segno. Ogni amante in difesa, ora lo vedremo.